Ah, no, ecco, l'avevo intuito che era successo qualcosa. È successo qualcosa. La Paola Naldi di Repubblica ha scritto di questa cosa. Ci vuoi leggere? No, non ce l'ho davanti, naturalmente. L'ho notato venendo qua. Praticamente era così, che tu entravi nella mostra, nella sala grande delle ciminiere, c'era un muro a sinistra dove c'era disegnata una motosega enorme, e sotto c'era scritto: il collezionista che viene qua con la motosega può tagliare il muro e portarselo a casa. Sì. E dunque domenica tardo pomeriggio qualcuno è arrivato con la motosega, e fra l'altro io ero in un altro posto, ero a vedere la Margherita Morgantin. Mannaggia. al boschetto, e quindi hai l'alibi, ero di fianco a Lorenzo Balbi, il direttore del Mambo, che immediatamente gli è stato telefonato per dirgli questa cosa, qualcuno ci ha preso in parola. Lui era rimasto un po' così, cioè era una cosa inaspettata, si aspettava che prima o poi succedesse, ma succedesse. È stato Aldo Giannotti stesso che ha ingaggiato. Non è stato Aldo Giannotti non stesso. È stato Aldo Giannotti. Non ne ho le prove inconfutabili, ma so che non è stato Aldo Giannotti stesso. Però magari lui è il mandante, sai come vanno queste cose. Lui era il mandante, perché naturalmente c'era per scritto forza. Sul muro. Anzi, è la famosa responsabilità politica. Esatto, no? Esatto. No, la cosa incredibile, perché io pensavo, quel terrorista di Aldo Giannotti fosse di muro, perché quel muro lì c'è sempre stato, per cui io avevo preso per scontato che quello fosse muro. Invece no, non era muro. Volgare cartongesso. Esatto. Effettivamente sai che forse non c'era quando c'erano i fornopanisti. Comunque, detto questo, dopodiché pensavo che nel momento in cui qualcuno entrava nel Mambo con la motosega, lo staff diceva: no, tu con la motosega non puoi entrare, che era un po' il gioco di safety, no? Invece è tutta basata invece, sulla sicurezza. Invece, no? Però magari è stato pagato un qualche... No, è arrivato con un borsone, un serviente compiacente. E una piccola moto, cioè la sega non era di quelle lunghissime. No, quelle anche perché comunque si sente se... Si sente se attivi una motosega? Lui si è messo proprio plateale, si è messo in mezzo alla sala, ci ha messo anche un po' per accenderla perché non si accendeva, però nessuno ha fatto niente. Per cui lo staff sapeva che di non doverlo fermare, insomma. Se riusciva a sfondare tutte le barriere Dopodiché naturalmente l'hanno ripreso in 20, per cui se basta andare su Instagram e scrivere Aldo Giannotti e trovate il video, subito il video della motosega. Poi hanno fatto fatica a staccarlo perché erano in due, hanno fatto fatica ma a staccarlo. Ma li abbiamo identificati? Credo di sì, però non mi ricordo erano i loro mascherati. Nomi. No. Anzi, ci deve essere uno che su Instagram si è autotaggato dicendo: Sono stato io. Esatto. Il quadro rubato è su istruzioni dell'artista. D'altra parte, insomma, ci sta. E poi hai portato il tuo. Sono già tutti occupati gli armadietti, perché io... Anzi, fra l'altro ti volevo dare questa notizia, già che ci siamo, visto che sei arrivata adesso, te la do in diretta, che tu parteciperai a una collettiva all'interno di questi armadietti. Siete in tre, la curo io, la mostra si chiama The Show Continues. Ma sono onorata, cioè quindi addirittura proprio una cosa che ha una veste di ufficiale. Io avevo già pronto il mio... Completamente ufficialità. Ma sono sconvolta, bellissimo. Siete tu, Elena Measchi, e indovina chi è il terzo. Ed è un maschio, perché hai detto chi è il terzo. Esatto. Sai che mi devi dare un po' di tempo per pensare, tanto non ho ancora... La mostra si intitolerà adesso... Pino Boresta? No. Ma no, porca miseria, mi dispiace. No. La mostra si intitolerà The Show Continues on the Terrace on the Other Side of the Road. Questo capito? Famoso la mostra continua sul terrazzo del palazzo di fronte. Mi piace molto questa iniziativa. Esatto. Mi ha dato quel guizzo di adrenalina. Vero? Che mi ha fatto aprire un po' l'occhio. Esatto. Te lo dico io che è al terzo. Aldo Giannotti, naturalmente. Ma non l'avevo... Cioè, mi sembrava ovvio, però mi sembrava quasi troppo... Prima di tutto gli ho chiesto: mi piacerebbe che tu partecipassi a una piccola collettiva che sto curando. All'interno della tua mostra. Esatto. E dopo gli ho detto, quando ha deciso che c'era, ha detto: beh, certo, sicuramente, ho detto: vabbè, ti dico anche dove la facciamo. Ed è dentro la... Però bisogna sbrigarsi, nel senso che... Quando inauguriamo? Non lo so, però domani vado a installarla, perché altrimenti finiscono gli armadietti. Ah, ok, cioè quindi te la devo dare adesso? No, l'opera? No, l'opera pensavo di mettere quel fantastico disegnetto che mi hai regalato una volta che abbiamo fatto l'altra. Ah, fantastico! Ma siccome stiamo diventando troppi autoreferenziali, no, infatti, ti faccio sentire una canzone. Loro sono i THX. E il pezzo si chiama Hit Them Up, è uscito domenica della settimana scorsa e lunedì scorso mi sono dimenticato di suonarlo, e loro sono Lidia Centineo e Aldo Galgano, per cui un altro Aldo. No, ho sbagliato, scusa, è Simone Galgano, figlio di Aldo Galgano, che salutiamo, anzi salutiamo anche Ermanno Cristini che ti saluta perché ci siamo sentiti grande prima, Ermanno ci Cristine. Siamo sentiti prima per il... detto questo appunto adesso detto faccio questo 361 non è un numero primo e quindi adesso vado a fare le divisioni. Brava. I'm mai sentito che voce è la nostra Lidia. Sì, perfetto. In realtà non ho ascoltato perché ero tutta intenta a stilare questa classifica. Anche perché a me, io nel frattempo mi è venuta in mente che potevamo. Ti è venuta in mente questa siccome cosa. Io mi sono portato, come sentite, il grande dépliant di Art City. Ma che bello! Io invece devo ritornare a cliccare su Agenda Cultura perché sono tutta multimediale. Sei tutta multimediale. E ho pensato così un po' da stronzi. Di fare la classifica di Art City. Sì, tu hai visto 4 o 5 mostre? Io ho visto 4 o 5 mostre di cui 4 le hai viste anche tu. Okay, quindi ce n'è solo una che ho visto che tu non hai visto. Perché io sono Hai visto la Camoni tu? No, non ho visto la Camoni. Ok, neanch'io. Allora, le mie 4 sono Mezzacqui, Camoni, Andreotta, Calò, Pessoli. Hai appena detto che non l'hai vista e poi me la metti? Ho detto Mezzacqui, ho detto Camoni. Hai detto Camoni. Però ho pensato Mezzacqui, okay. E stavo anche sottolineando Mezzacqui. Okay. Questo cioè, già un po'. Vabbè. La mostra di Sabrina Mezzacqui. E anche Letizia Cariello, ho visto che tu non hai visto. Ah, ecco, io non l'ho vista, è vero. Oh, allora però due. Lì siamo nelle gallerie, altri spazi espositivi, per cui secondo me non contano. Noi dobbiamo rimanere sul. Va bene, allora di Letizia Cariello non ne parliamo e la mettiamo tra parentesi. Ne possiamo parlare, dai. Però non la mettiamo in classifica. Non la mettiamo in classifica, sì. Okay. No, anche perché pensavo, per esempio, Sabrina Mezzacqui dentro all'oratorio di San Filippo Neri. Io purtroppo nel cartaceo non ho alcuna data, per cui non so nemmeno. Se queste mostre rimangono allora quello della Mezzacqui direi proprio certamente no, anche per anche per l'impegno della cosa, perché, giusto, perché tutti i giorni, ecco, raccontiamo che cosa ha fatto. Allora io mi sono abbastanza incuriosita e avrei voluto chiedere a Sabrina, se mi fossi organizzata magari per contattarla, se andava lei in momenti di chiusura a riorganizzare tutto questo io ho la risposta. Questo mandala. La risposta è sì. La risposta è tutte sì. Tutte le mattine prima della apertura lei andava e ricambiava e cambiava questo. Accidenti, il mattino all'ora in bocca, vedi? Io avrei scelto la sera, io avrei trovato avrei usato questo evidentemente pretesto. Evidentemente Sabrina è una mattiniera. Comunque raccontiamo la cosa. Dunque, hai detto che i pezzi erano presi da... Tu lo sai, non c'era scritto. Non c'era qualcuno scritto. Qualcuno mi ha detto che aveva a che fare con dei lampadari russi. Sì, sembravano non tutti, c'erano anche dei cucchiaini, quindi non penso che fossero solo lampadari, sembravano servizi di per terra in questo spazio molto ieratico eccetera, c'era questa installazione che tutti non i giorni cambiava perché c'è troppa gente che lo sta cercando. Sì, c'era un grandissimo mandala realizzato con questi tipo con questi 4 oggetti metri per 4 metri, una roba del genere. Sì, molto grande, questi oggetti in metallo, in qualche non so, peltro o forse addirittura argento, non lo so. Chi lo sa? Che venivano riorganizzati ogni giorno, quindi era un mandala cangiante, il titolo a me è piaciuto molto l'abilità di mutare con le circostanze. E anche la videoproiezione in questo oculo che c'è sul fondo della San Filippo Neri e veniva proiettato io ne ho visto uno solo, quindi non so, magari raccontami cosa hai visto tu. Ho visto un video dove c'era un riflesso di Venezia con dei, forse era Venezia, forse no, però c'era un riflesso di acqua con dei pesci rossi che ogni tanto passavano. Allora forse c'era un elemento acquatico ricorrente. C'era quello che ho visto io invece era una ripresa di una parte di un corso d'acqua, forse di uno stagno, magari poteva essere anche, no, forse una pozzanghera, no, perché mi sembra che ci fosse un'idea di corrente con questi piccoli esserini che appunto potevano essere Anopheles o altre creature. Ho capito. Che passavano per di lì e di grande efficacia visiva, direi. Comunque soprattutto mi sono anche domandata, ma cioè il lavoro di Sabrina Mezzacqui mi ha fatto sorgere questa domanda, ma chi partecipa ad Art City? Sì. Viene percepisce un gettone come artista? Lo dobbiamo proprio dire in diretta? Non lo so, però possiamo chiedercelo. No, perché comunque è un lavoro, cioè voglio dire. Sicuramente Sabrina. C'è del lavoro proprio. Dipende, adesso questo lo dobbiamo chiedere in questo caso per Sabrina lo dobbiamo chiedere alla Fondazione del Monte, se non sbaglio, visto che l'oratorio di San Filippo Neri è gestito dalla Fondazione del Monte, e mentre invece dipende dalle circostanze. Secondo me dipende dall'abilità dell'artista di farsi pagare, sicuramente, a seconda delle circostanze. E poi anche dipende dal posto in cui l'opera è realizzata, sì, perché molto spesso, cioè la maggior parte delle opere di Art City, secondo me, vengono prodotte dalla galleria che rappresenta l'artista, e dunque la maggior parte degli artisti che voi vedete ad Art City sono artisti che hanno gallerie commerciali alle spalle. Sì. Mi viene in mente, per esempio, Virginia Vanetti con Be a Poem, che ha fatto questa installazione, questa mostra, anzi una mostra personale, all'interno delle sale espositive di Palazzo da Curzio, e quella era prodotta dalla sua Traffic Gallery, che salutiamo bellamente. E salutiamo Roberto Ratti. Io personalmente mi scuso perché in questi giorni non sono riuscito a passare. Anche io mi scuso, ma io mi dovrei scusare praticamente con tipo 150 persone. Io invece ho visto un sacco, più che altro come grazie al press pass di Radio Città Fujiko sono potuto andare a vedermi, per esempio, Gregor Schneider, che è stata una delle accidenti. E tu hai, quindi hai potuto utilizzare, ma non me l'avevi detto, te la sei tenuta per te questo Drollis. Certo. Bene, allora se domenica prossima mi voglio infilare. Anche sì. Queste non le possiamo dire in diretta. Oggi sono tutta politically incorrect. Sei politically incorrect. Volevo fare una considerazione di carattere generale, comunque, su questa. Alcune considerazioni. Allora, io ho percepito una grande compostezza e urbanità all'interno della fruizione di queste opere, che si potevano vedere per via della questione prenotazione, distanziamento, eccetera, in pochi. Quindi non c'era mai un effetto folla, almeno io. Certo. No, infatti, questa cosa l'ho apprezzata. Funzionato tutto molto bene. L'ho apprezzata molto. E, anche se mi dicono che in alcuni spazi, per via della legge, cioè del DPCM di Draghi, che dice che per i musei bisogna registrarsi almeno 24 ore prima dell'evento. In alcuni spazi, soprattutto quelli molto istituzionali, non lasciavano entrare, anche se l'evento era vuoto. Ecco, c'è stato un certo sottoutilizzo, questo sì, esatto. Infatti questo va sì. Rilevato e infatti mi aggancio subito con la mia seconda considerazione, che è invece in tutto il resto della città c'era una sovrabbondanza di esseri umani. Esatto, addirittura anche il mercatino in Santo Stefano, sì, dell'antiquariato, quindi esatto. No, infatti dire, io stavo per passare di lì in bicicletta e ho detto forse non è il caso. Io di invece ho osato, però il giorno dopo ho fatto il tampone. Diciamo, ah, ok, così. Fantastico, perché sì. Sono andato a vedere Francovi Mercati al Museo Morandi, che se non sbaglio dura per un mesetto buono, quello è una bella mostra. E poi sono andato a vedere Alessandro Pessoli da Alchemilla, che ho visto anch'io. Facciamo un piccolo spoiler sulle puntate successive. Dai, facciamo un piccolo spoiler. E forse spoiler. Riusciremo ad avere non nelle prossime settimane, non abbiamo ancora precisato una data. Il curatore, esatto. Fulvio Chimento. E poi chiamiamo anche Pessoli dal vivo. Perché tanto lui abita a Los Angeles. Esatto. A Los Angeles le 7 di sera mi ha detto. Tipo le 2 di pomeriggio. Esatto, mi ha detto Fulvio, mi ha detto Pessoli è già, all'ora in cui fate la trasmissione, è già alzato, è già sveglio da circa 2 ore e mezza, da 3. Circa 5 minuti. 5 minuti, no, quello era Giancarlo Norese. Ok. Fantastico. Sono le 19:30 e questo è Coxo Spaziale, anzi. Coxo Spaziale. La grande sarà una principessa. La sicurezza dell'esperienza. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Stai ascoltando la 361esima puntata di Coxo Spaziale. Esatto, che non è un numero primo, in cui noi, siccome non abbiamo altro di che parlare, facciamo la classifica di che cosa ci è piaciuto di più a Art City. Bene. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più a Art City? Ma guarda, io ne ho viste, cioè ho visto poche cose, quindi okay. È una classifica un po' così. È una classifica parziale anche per me. È una classifica poco rappresentativa, okay. Diciamo, perché è poco significativa e poco rappresentativa, sì. Insieme. A me è piaciuto molto, devo dire, sono rimasta abbastanza conquistata da tutto il l'impegno tecnico dell'opera di Giorgio Andreotta Calò nello spazio del Laboratorio degli Angeli, Ellissi. Ellissi, una mostra di 3 giorni che io ho mancato e che non vedrò. Sì, è molto, molto suggestiva, direi un'installazione di tipo che gioca un po' sulla fenomenologia, no? Anche poi una riflessione sulla fotografia e sull'evoluzione della fotografia, perché lui praticamente ha realizzato, adesso la dico così, c'era l'artista che ci ha spiegato in modo molto preciso, circostanziato, interessante tutti gli aspetti del suo lavoro, e devo dire che sono rimasta un po' anche conquistata da questa sua allure da maestro, diciamo. Ecco, e io non ho questa allure da maestro e quindi vi dico semplicemente che ha realizzato dei giganteschi provini a contatto di una vetrata di una chiesa olandese, credo la più antica chiesa cattolica in Olanda, che è stata poi spogliata da tutte queste vetrate istoriate, e quindi per ragioni, credo, di questioni tra cattolicesimo e protestantesimo, credo. E controllate tutte queste informazioni che vi do, perché controlleremo le tue informazioni. Comunque a me è piaciuto molto proprio l'aspetto tecnico, e anche l'aspetto percettivo era molto efficace, perché entravi in questa atmosfera immersiva completamente rossa e tutti i neri, perché le foto erano in bianco e nero, mm-hmm. tutti i bianchi delle foto erano rossi, cioè, e tutti i neri indovina che cosa diventavano? Neri. No, caro, diventavano ciano, perché stando dentro all'ambiente l'occhio il nero lo percepiva ciano per via della presenza del rosso. Secondo me tu lo percepivi ciano, ma gli altri lo percepivano nero, ma comunque va bene. Mi fido ciecamente, e poi non posso nemmeno controllare. Io l'ho percepito ciano, cioè adesso chiederò a chi c'è stato. Allora, capivi che si trattava di un nero, però se uno lo osservava con onestà percettiva, secondo me doveva dire che era ciano. Comunque fa lo stesso. Io invece, naturalmente, il mio vincitore non può essere altro che Aldo Giannotti, perché la sua mostra al Mambo è spaziale, e non mancatela, avete da qua fino a quasi settembre, anzi i primi di settembre se non sbaglio, per vederla e vedere soprattutto come darvi degli spunti su come l'idea stessa di museo può cambiare nel tempo, no? E quello che mi piace veramente molto di questa mostra è non solo vedere i guardiasala ballare o fare cose strane, e fra l'altro sono sempre gli stessi, per cui visivamente li conoscevamo, ma stavolta fanno cose che di solito non fanno, ma proprio il pensiero che il museo potrebbe potenzialmente diventare qualcosa di molto più potente nella vita della gente. Sì, sono d'accordo con le tue considerazioni. Io la mostra non l'ho ancora vista, ho grandissime aspettative. Spero che non rimarrai delusa. No, non rimarrò mai, direi che è quasi impossibile, cioè anzi lo darei per impossibile. Però devo dire che Aldo Giannotti io lo metterei fuori gara, sinceramente. Okay. Perché non puoi mettere a confronto un bando dell'Art Council che è stato pensato appositamente poi per quel luogo e su cui ci stiamo lavorando da numerosi mesi, se non addirittura anni, con una cosa che nasce in tre giorni e dunque allora se è fuori gara il mio numero uno mi diventa Gregor Schneider, naturalmente. Che però anche lui è un attimo fuori gara, perché non puoi mettere un vincitore del Leone d'Oro alla Biennale di Venezia. l'angolo della menzione. Ma incredibilmente succede qualcosa anche questa settimana. Beh, succedono tantissime cose. Questa settimana? Ma io ho trovato solo una, che è l'apertura di questo posto, che fra l'altro io per sbaglio ci ho parcheggiato davanti quando sono andato a vedere Helen Dowling. E ho detto, ma che cos'è sto posto? Si chiama Museo Spazio Pubblico in via Curiel, che via Curiel è dietro, praticamente sotto a Villa delle Rose, e inaugura un nuovo spazio che si chiama Museo Spazio Pubblico venerdì 14 maggio. Dalle 17 c'è la presentazione dell'opera Site Specific Raffaello 500 di Flavio Favelli, e alle 18 invece ci sono Flavio Favelli, virgola, artista, Lorenzo Balbi, virgola, direttore artistico del Mambo, Claudio Musso, virgola, docente dell'Accademia di Belle Arti di Bergamo e curatore indipendente, che discuteranno dell'opera in presenza e in diretta streaming sia sulla pagina Facebook del Museo Pubblico che in diretta appunto in via Curiel numero 13D. Via Curia 13D, quindi anche diretta streaming, per cui io, anche se sarò a Roma, vi posso seguire. Esatto. Ma che bello. Hai visto che mixata che ho fatto? Ma però veramente fra l'altro mi è rimasto in mano un pezzo di mix. E che cos'è sta musicaccia di sottofondo? L'ho scelta io? Sembrerebbe una specie di versione di... Potremmo mettere un'altra canzone, effettivamente. Aspetta, che comunque questa non era male, eh. Ah sì? Sei una tamarra così. Allora, ha sempre il suo perché. Questa è, non so come si pronuncia, Angela. Nella versione online di Art City hanno cancellato tutti gli eventi che sono già finiti. Ah, ma davvero? Ci sto nella pagina culturabologna.it. Ma, come no? No, ma scusa, davvero? Giuro. Io le ho trovate. Ah, perché forse il tuo. Ah no, non è vero, perché abbiamo Back Batar Egg Tour che c'è. Ah no, fino a venerdì 4 giugno. Okay. Sai che forse hai ragione? Beh, bella questa cosa, boh, ma una raffinatezza. Veramente. Complimenti. E così scopro che posso ancora andare a vedere uno per due Flavio Favelli, Nanni Menetti, Fabio Lanaldi alle collezioni comunali d'arte, e anche Fabio Lanaldi come artista, scusa, è un trittico, ah, è una... interessante. Sì, no, si chiama così la mostra, in realtà è un titolo. Sì, è il titolo della mostra. Gli artisti sono solo Nanni Menetti e Flavio Favelli. Flavio Favelli è veramente esponenziale. Lui è sempre stato abbastanza esponenziale. Possiamo chiamarlo qua a parlare di matematica con me. Infatti, no, adesso prima o poi lo facciamo. Ah, vedi, domenica 23 maggio, Giorgio Andreotta Calò è fino a domenica 23 maggio. Sì, infatti Giorgio Andreotta Calò lo puoi ancora andare a vedere, tra l'altro. Bello, visto che è piaciuto a tanti, lo vado a vedere assolutamente. Sì, no, vado a vedere perché merita. Tra l'altro, se ci prendiamo la briga di aprire il comunicato stampa, vi posso anche leggere un pezzettino. Pure aprire perché... il comunicato stampa, dobbiamo. No, lo sì, apro perché mi sento, dai, mi apri, sento apri. Un po' di avere maltrattato la descrizione. E quindi vi leggo, perché Giorgio Andreotta Calò, comunque ricordo che non è nuovo alle riflessioni sulle varie declinazioni del mezzo fotografico attraverso invece interventi installativi, vinse un premio Italia, come si chiamava quel premio importante che davano al Maxi, il premio Italia, il premio Italia, come si chiama? Ma secondo me si chiamava il premio Italia. Ma è una cosa, non so se lo fanno un po' tipo vincere Sanremo, insomma. No, beh, insomma, comunque l'avrei vinto volentieri. E aveva realizzato un'enorme, gigantesca camera foro stenopeico con cui si vedeva ciò che stava di fronte al vetrattone del Maxi. E quindi, mettendo da parte l'obiettivo e il mezzo fotografico, l'artista modula la luce naturale che diviene così strumento per riprodurre in maniera diretta e senza alcuna mediazione l'immagine dell'incontro tra la Vergine e l'angelo annunciante. Quindi è un'annunciazione, è una rivisitazione. Ho capito. Hai capito? Hai capito. E poi cos'altro? Io ho visto anche Francesca Pasquali, Natura Plastica. Ecco, infatti volevo appunto chiederti, perché Francesca Pasquali, dobbiamo dire che è una delle partecipanti a Master Artist. Sì, infatti l'ho incontrata e io gli ho detto: sai che mi sono stupito che hai partecipato a Master Artist? E lei mi ha detto: ma perché? Era così, ha detto: a me le piacciono le sfide, ed effettivamente mi è piaciuto molto il suo atteggiamento. Devo dire che quella mostra è piuttosto potente, anche se è una mostra un po' strana, nel senso che la raccolta all'Ercaro ha tutta una serie di opere già predisposte, per cui lei si è dovuta infilare nei meandri, cioè tra un'opera e l'altra ogni tanto spuntavano dei lavori suoi, però devo dire che mi hanno convinto. Sarà che il suo cognome assomiglia al mio. Pasquali, Pasquini. Comunque, visto che hai tirato in ballo la questione Master Artist, io volevo anche dire che però, cioè, io avrei fatto vincere o Antonio Guiotto o Max Oddone, cioè per me. Cavoli, sai che Luca Rossi, fra l'altro, ha appena commentato la mia foto, perché è riuscito a leggere quel cartello lì: caro amico, se soffri di disturbi compulsivi ti pregato di sfugarti. Bene, con i pannelli fonofsonetti di casa tua, non ha bisogno dell'oculista, e non danneggiare, Rossi. Infatti, e non danneggiare quell'irlandese da 11 decimi. Luca Rossi, fra l'altro, prima o poi lo dobbiamo invitare, assieme a tutti quelli, a tutti i componenti, tutti insieme, Max Oddone potremmo invitarlo, abita qui vicino. Max Oddone, ma sai che infatti l'avevano detto che avrebbero fatto una cena a Bologna, e dunque prima della cena li invitiamo a Coxo Spaziale. Se lo fanno un lunedì siamo a cavallo, perché effettivamente erano quasi tutti attorno al bolognese. Non so com'è questa cosa. Non lo so, Luca Rossi è di Imola, quindi sì, esatto. siamo un po' in questa zona. E invece io volevo fare un'altra considerazione generale. Fai un'altra considerazione generale. E quindi volevo proporti di riformulare la tua classifica a partire da questa mia considerazione generale. Ok. Cioè, mi sembra, però correggimi se sbaglio, che rispetto ad altri anni di Art City, questo Art City qua abbia una presenza di artisti... Italiani. Non è difficile indovinare, esatto. Perché ovviamente ci arriverà anche l'ascoltatore distratto, se ce l'abbiamo, esatto. Perché noi abbiamo quello attento e quello esigente. Infatti Gregor Schneider e Ellen Dowling, gli unici due stranieri di tutto Art City, praticamente non sono venuti, per cui esatto. Qualcun altro ha installato al posto suo, e io so anche il nome e cognome: Anna Rossi, naturalmente. Vabbè, la grande Anna Rossi, pure lei artista, che forse andrebbe qualche volta chiamata per parlare rivitalizzata anche di sé. Infatti. E quindi mi sembrava comunque bella questa cosa, cioè a me è piaciuto. Sì, certo. A me è piaciuto, sarebbe mi è piaciuto trovarmi, magari. Sì, esatto, mi sembra che siano delle indicazioni che da un lato tutta la città potrebbe cogliere, cioè non assembratevi, facciamo che guardiamo le cose con calma, come abbiamo abbiamo fatto Dark City un po' per volta, e poi lavoriamo tutti noi, cioè che abbiamo tante cose da dire. A me è piaciuta questa cosa qua. Sì, devo dire sì, il promuovere la il promuovere l'arte locale in realtà è una cosa molto locale, oddio, poi nazionale, perché cioè, sì, adesso certo. Locale ti dà subito quel senso un po' di provincialismo, invece è il contrario. Surprise, esatto. invece è il contrario. Allora adesso Pasquini ci spiega perché è il contrario, perché tutte le città del mondo promuovono i propri artisti locali, e questo è l'atteggiamento meno provinciale in assoluto. Tu pensa agli artisti che partono da New York e da lì vanno in tutto il mondo. Ma e questo vale non anche... verrebbe mai in mente al sindaco di New York chiamare gente da Bologna, per esattamente, esempio. Esattamente. Cioè, se tu da Bologna vuoi arrivare a esporre a New York, prima di tutto devi essere ben conosciuto a Bologna, poi ben conosciuto in Emilia-Romagna, poi ben conosciuto in Italia, poi ben conosciuto in Europa, e dunque prima o poi arriverai in altre sedi. E invece, che è quello che e invece io vorrei proprio notare, a proposito di un'altra mostra che comunque io ho apprezzato, ma non ci dilunghiamo perché avremo l'approfondimento dedicato, che è quella di Pessoli, certo. Che ha seguito un po' quasi il contrario, cioè è diventato prima molto famoso negli Stati Uniti e poi adesso arriva a Bologna. Perché... ma quello è normale, no, cioè, il contrario siamo noi. Esatto. No, mi ha colpito un artista come Pessoli, tra l'altro insomma, comunque pittore, cioè, pittore, certo, anche se non sono solo opere di pittura, mm-hmm, quelle che vediamo in questa mostra specifica, con così poche personali nella città in cui si è formato, perché lui è uscito dall'Accademia di Belle Arti di Bologna. Certo, con Pozzati. Mi ha abbastanza sconvolto questa cosa. Mm-hmm. Cioè, a me non mi sconvolge per niente. Cioè, mi ha sconvolto. Cioè, anzi, in realtà sai che cosa mi sconvolge di più? Una personale di Nicola Samori, che ha studiato anche lui all'Accademia di Belle Arti di Bologna, a Palazzo Fava. Quello mi sorprende di più. Sì, cioè, mm-hmm, partendo dall'assunto del dall'assunto della nostra provincialità. Del nostro provincialismo. Però, insomma, diciamo che in questa edizione siamo riusciti... Provincialismo. Insomma, a infamare tutti. No, siamo riusciti in questa edizione a essere un po' meno provinciali. Un po' meno provinciali. Esatto. Io ho anche coniato durante la settimana, che tu non ci credevi, mm-hmm, il termine per la categoria a cui io sento di appartenere. Poi, se fantastico, ti vuoi aggregare anche tu, perché l'ascoltatore attento ricorderà che avevamo parlato di mid career la volta scorsa, che era rimasto anche colpito chi è che aveva intervistato? William Piana aveva intervistato, ecco, William Piana aveva detto mid career, mi era piaciuto il termine mid career. Bene, allora io per me stessa propongo odd career. Odd career. Tu sei una di quelle che Franco Vaccari chiama i cani sciolti. I cani sciolti. Ovvero quelli che non sono classificabili. Esatto. Io sono convinto che cioè per me essere un cane sciolto è un motivo d'orgoglio, naturalmente. Bene, allora usiamo questa categoria e diffondiamola. Usiamo l'odd career artist. Esatto, odd career. Dopodiché io sono stato al Teatro Storico di Villa Aldrovandi di Mazzacorati, che è un teatrino che è grande come questo studio ed è meraviglioso. Infatti devo dire, anzi lo posso ammettere, che non sono andato là per vedere Riccardo Baruzzi, che comunque aveva fatto una bella installazione video. Anch'io ero tentata, ma perché avuto volevo tempo... far vedere il teatrino a mia moglie, che non l'aveva mai visto. È veramente una chicca. E poi un po' per un motivo simile sono andato a vedere anche Carola Bonfili al rifugio antiaereo Vittorio Putti, ex militare. Sì, anche questo mi aveva incuriosito. Sì. Allora raccontami Carola Bonfili. Ha fatto questo video, era tutto molto suggestivo, nel senso che c'era questa musica piuttosto particolare, poi c'era un video fatto in 3D che però non si capiva se era fatto in 3D oppure no, di questo ruscello, e tu praticamente ci volavi sopra, eccetera. Devo dire che è stato più potente il vedere questo mi dispiace per lei, ma era più potente lo spazio che non il video in sé. Questo è un po' il rischio e il vantaggio, esatto, di usare un posto del genere, posto, nel senso che il posto già meraviglioso di suo, esatto, è così potente il posto che effettivamente qualunque cosa gli metti, senza offesa naturalmente, funziona molto bene, perché il posto è meraviglioso. E poi ci sono anche quelli che usano invece la strategia opposta, cioè che utilizzano dei posti talmente orribili che la loro opera non può che migliorarli. Ecco, io una cosa del genere faccio fatica, perché rischio che la gente non si accorga dov'è la mia opera. Per cui... mimetica. Esatto. È un atteggiamento mimetico. Un atteggiamento mimetico. Dopodiché ho mancato Michelangelo Pistoletto, ma vedo dal sito che posso ancora andarmelo a vedere. E ne approfitto per salutare Silvia Evangelisti, che ha curato la mostra. E poi cos'altro abbiamo mancato? No, in realtà. Ma tu mi hai citato Arienti, per esempio. Arienti, sì. Stefano Arienti ha fatto un lavoro che potete vedere 24 ore al giorno, perché è in esterno. Ha fatto due Italie, una fatta di vetro, che fra l'altro trovate proprio dove la gente fa la fila per farsi il tampone in Piazza della Costituzione, e invece davanti all'Esprit Nouveau c'è un'altra Italia fatta di fiori, e si chiama, fra l'altro, il lavoro si chiama Ricchi e Poveri, per cui sì, mi ha ricordato un po' Sanremo, e devo dire. E i ricchi sono... I ricchi e poveri... No, sì, lo so, dico i ricchi e poveri, cioè quale Italia è quella dei ricchi e quale quella dei poveri? Ah, quello non saprei. Presumo che quella dei ricchi sia quella dei fiori e quella dei pezzi di vetro sia quella dei poveri, però effettivamente devo dire che... Non è ovvio. Non è tanto ovvio, forse dovremmo chiedere a Stefano Arienti anche questa cosa qua. E poi invece lì di fronte, al padiglione dell'Esprit Nouveau, c'è una mostra meravigliosa dove dovrò tornare, a cura di Luca Cerizza, di Vincenzo Agnetti. Neg suonare le pause, fra l'altro è una mostra anche abbastanza sonora, perché Vincenzo Agnetti aveva costruito questa macchina, questa strana macchina per fare i suoni, che poi è andata distrutta, per cui è stata ricostruita per l'occasione. Ah, meraviglioso. Ma Vincenzo Agnetti è ancora visibile? Vincenzo Agnetti dovrebbe essere ancora visibile, penso che stia su almeno un mesetto. Andiamo a cercare. Non la trovo, però presumo di sì. Sai che... Ah, sì, 13 giugno, bene, perfetto. Ok, abbiamo un sacco di tempo. Mentre invece Gregor Schneider, che è una mostra fantastica, anche se ci puoi stare dentro solo 5 minuti, perché Gregor Schneider è questo artista che costruisce questi spazi, queste stanze. Lui dice che è uno scultore che scolpisce stanze. Fra l'altro questa stanza dove non si capisce bene se ci si è già stati, eccetera. Poi c'è un video che non si capisce che cosa fa vedere la stanza stessa, insomma non vi voglio spoilerare, però ci si può stare solo 5 minuti, per cui bisogna registrarsi, e quello finisce domenica 16 maggio, che è domenica prossima, per cui mi raccomando, andate a vedere Gregor Schneider, che non ve ne pentirete. E poi basta. Ridendo e scherzando, Vi mercati a Casa Morandi è una mostra interessante, è queste fotografie che sono fotografie di brocche e comunque oggetti che ricordano molto la ricerca di Morandi, per cui ci stanno molto bene e anche quella da vedere. Ma Ellen Dowling, sei stato a vederla? Sì. Ah, okay. Ci vuoi dire qualcosa dal tuo punto di vista? Perché tu non ci sei stata. Ancora no. Ah, ok. Dunque, lei ha utilizzato solo le stanze superiori di Villa delle Rose, ed è la prima mostra che ho visto e non mi ricordo già più niente. No, non è vero, ci sono... Allora magari io dopo che sono andato a vedere, lo facciamo così, va. Però c'è questo video che mi diceva la curatrice, che ci ha messo mesi e mesi a costruirlo, di questo scheletro tutto fatto in 3D e in una posizione fetale che gira, ed è anche color silver, come si dice, argento. Non lo so, mi ha lasciato un po' così. Forse è una mostra da riguardare, e anzi magari a te piacerà tantissimo, per cui possiamo litigare lunedì prossimo sui significati reconditi di questa lunedì mostra. Prossimo no, perché penso che non avrò fatto in tempo a vederla, essendo che io andrò a Roma. Molto bene, magari fatto sta che mi dice un orologio che sono le 19:55, l'altro mi dice che sono le 19:57 e questo qui dice che sono le 19:59, 08, 09, 10, e dunque 11, noi eravamo Chiara Viola, e Stefano W. Pasquini. Questo era Coxo Spaziale, e naturalmente vi salutiamo con le parole meravigliose del nostro direttore, che salutiamo. Direttore. Absolutely. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.